di Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno. Sono puntate un po' particolari queste, lo avete intuito tanto dal fatto che non siamo in onda tra le 13 e le 13:15, tanto dalla nostra sigla che non ha il sottotitolo Le notizie in 60 minuti, perché sono puntate queste di Natale nelle quali ci dedichiamo a un po' di approfondimento. Toccheremo vari argomenti. Non saranno necessariamente le notizie più importanti dell'anno, ma ci saranno naturalmente anche quelle. Ci saranno notizie che ci hanno colpito, storie che abbiamo trovato interessanti e come sempre ci sarà il contributo della redazione di Radio 24. Ci occuperemo di cronaca, di esteri, come sempre abbiamo fatto, e ci occuperemo ovviamente anche di sport e di cinema. Dovendo ragionare su qualcosa che ha attraversato tutta la produzione di quest'anno, tutte le notizie di quest'anno, di questo 2014, ma se vogliamo risalire indietro anche ovviamente il 2013, ebbene è qualcosa che ha a che fare con la fragilità di questo paese. Tanto spazio abbiamo dedicato alle alluvioni e alle piogge intense che hanno generato danni in tutta Italia. Pensiamo ovviamente e soprattutto a quello che è successo a Genova in ottobre, ma non solo. Pensiamo per esempio a quello che è successo in Sardegna un anno fa. È da qua che vogliamo partire. Io saluto Erasmo D'Angelis, che è capo della struttura di missione Italia Sicura, è la struttura di missione di Palazzo Chigi della Presidenza del Consiglio, che si occupa esattamente di dissesto e della sistemazione, per così dire, del nostro territorio. Buongiorno D'Angelis. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, prima di parlare con lei, però, noi abbiamo raccolto tantissime voci in quest'anno, come potrà ben immaginare, stando sulla cronaca. Sentiamo qualche piccolo estratto, perché poi ci consente anche di dialogare meglio con lei su quello che ci hanno raccontato soprattutto i sindaci. Sentiamo. È una tragedia, perché già famiglie provate, povere, posso dirlo, non hanno più niente, devono buttare la cucina, i letti, i superlettri, le magliette, tutto, sono rimasti, sono più poveri di prima. Qua l'allarme elevato è stato dato in tempi utili, i sindaci hanno recepito. La cosa reale è che l'allarme è un allarme di un pericolo potenziale, quindi da noi è franata una montagna. Per individuare qual era la montagna che franava, dove, chi ci doveva passare sotto, non si poteva fare. C'erano 3 metri d'acqua, cioè abbiamo avuto in 2 giorni le precipitazioni in termini millimetriche che abbiamo in 6 mesi. Sono cose fuori dalla norma, quindi cosa potesse fare un sindaco? Io veramente non lo so, oltre che dare l'allerta, perché qua di allerta se ne danno 20 in ogni 4 mesi. Dobbiamo parlare di un'intera città che è nata negli anni in cui non c'erano regole urbanistiche e purtroppo sono maggior parte delle aree sono state condonate, dalle aree edificate sono state condonate gli immobili, ovviamente negli anni 80, 90 e 2000. Dal 2006 nessun condono può essere rilasciato ad abitazioni o porzioni di abitazioni costruite nelle aree interessate dal parco. E queste erano alcune delle voci, poi ne sentiremo altre e ci interessa soprattutto quella che abbiamo appena sentito, che è quella del sindaco di Olbia, Gianni Giovannelli, un'altra zona fortemente colpita dalle alluvioni. Allora, D'Angelis, secondo me il sindaco di Olbia sottolinea un punto interessante, perché dice che ci sono delle intere aree di fatto costruite in luoghi dove non dovrebbero essere costruite e quindi probabilmente là uno può fare tutti gli interventi che vuole, può anche evitare di rilasciare autorizzazioni al condono di alcune aree, però è difficile uscirne, no? Sì, molto difficile, soprattutto diciamo, prendiamo appunto il caso di Olbia, che forse diciamo è una metafora di cose da non fare, perché una città che si è vissuta un'espansione urbanistica sopra corsi d'acqua, cioè tombando corsi d'acqua e costruendo periferie dentro un reticolo idraulico molto pericoloso. E quindi già questo è un tema di grandi criticità. Dopodiché in piena alluvione tanti si sono rifugiati nelle cantine ed è un'altra grande questione che ha a che fare con i nostri comportamenti, e con una scarsissima o inesistente coscienza del rischio, conoscenza dei fenomeni, perché diciamo purtroppo una storia di fatalismo, di ricorsi alle superstizioni, al castigo di Dio, alla religiosità, pur nella sua grandezza, perché poi è accaduto questo nel nostro paese, non ha permesso all'Italia di fare quello che è riuscito a fare il Giappone, che è riuscito a fare la California, cioè affrontare il toro per le corna e dire come vogliamo fare noi, e dire adesso si fa sul serio. Si fa sul serio partendo ovviamente da una buona pianificazione urbanistica, alla fine del consumo di suolo, e soprattutto facendo le opere che servono, sì. Perché anche a Olbia noi abbiamo chiesto quali sono le opere cantierabili subito, cioè possiamo, abbiamo risorse, vogliamo intervenire. Non ce ne sono, ci sono degli studi di fattibilità, ma non ci sono, diciamo, cantieri che possono essere aperti subito, perché noi abbiamo fatto forse per la prima volta nel nostro paese, abbiamo diciamo, chiesto a tutte le regioni nel mese di settembre, portateci gli elenchi, sì, delle opere e degli interventi che servono in tutte le regioni a garantire, sì, la massima sicurezza. Ecco, qua le regioni lo hanno fatto, no? Vi hanno portato un elenco enorme di 4.500 interventi per una cifra che al momento, da quel che ci è sembrato di capire, non è disponibile, sono 14 miliardi e mezzo, no, se non oltre. Ma non sono disponibili i progetti, perché la nostra amarezza e anche un po' di rabbia è che è vero, cioè siamo intorno a circa 15 miliardi di euro complessivamente per mettere, diciamo, al riparo da alluvioni e frane questo nostro bel paese, però di questi soltanto un migliaio di progetti sono immediatamente canterabili, tutto il resto appunto sono finanziamenti a progetti che vedranno la fase di cantiere fra 2, 3, 4 anni. Cioè questo è il tema, cioè finora non si è fatta prevenzione, lo abbiamo visto molto bene perché questa è una bella cartina di tornasole. Abbiamo 4.500 lavori, no? E su questi 4.500 lavori soltanto un migliaio sono immediatamente cantierabili, sono quelli che noi oggi possiamo anche finanziare e finanzieremo, ma in città come Genova, Milano, Firenze, sul Sarno, in Calabria, cioè dove ci sono, laddove ci sono opere cantierabili, noi abbiamo la possibilità di finanziare per un semplice motivo: abbiamo fatto un'operazione di, come dire, di investimento a debito, una cosa molto semplice, anche banale se vogliamo, cioè abbiamo bisogno oggi di circa un miliardo per far partire un complesso di opere, sì, soprattutto nelle città metropolitane. Abbiamo chiesto alla BEI, Banca Europea, se può anticiparsi, sì, queste risorse, ci hanno detto di sì, lo Stato italiano utilizza come leva finanziaria 110 milioni che sono nello Sblocca Italia dedicati al contrasto al dissesto nelle aree metropolitane, e poi, come dire, restituendo questo debito in 30 anni. Sì. Una cosa sostenibilissima, sì, la facciamo. Cioè, lo spieghiamo per gli ascoltatori, anche se gli ascoltatori, sì, di Radio 24 di Economia un po' si intendono, è come un mutuo sostanzialmente. Esatto. Come un mutuo, però questo mutuo a noi serve per mettere in sicurezza con 370 milioni Genova, tutte le opere di Genova verranno realizzate, le opere sull'Arno per Firenze, le opere sul Seveso per Milano e giù via per la penisola, per diciamo anche Cagliari, qualcosa su Roma, però laddove ci sono diciamo così interventi che possono immediatamente diventare cantieri, che possono partire. Un'ultima domanda le voglio fare e riguarda un tema che in parte avevamo già affrontato anche da questi microfoni, ed è questo ragionamento che lei aveva fatto, che immagino che però necessariamente sia astratto, ed è il dire: ci sono alcuni posti dove semplicemente non si può più abitare, oppure è più conveniente prendere un paese o una zona o un quartiere e spostarlo da un'altra parte piuttosto che fare degli interventi di messa in sicurezza. Sì, questo diciamo, è in corso un lavoro, ve lo anticipo come notizia, con l'Agenzia del Demanio per valutare appunto questo tema delle delocalizzazioni, cioè è inutile continuare a riparare una via che si chiama Via della Frana, ce ne sono tante in Italia dove vivono poche famiglie, sempre a rischio di essere colpiti da frane con danni enormi, e cioè si possono delocalizzare queste famiglie, portarle magari in, diciamo, strutture pubbliche che possono essere ristrutturate con incentivi pubblici e privati, e nella legge delega del decreto di stabilità, quindi nella nostra manovra finanziaria, per la prima volta c'è un primo fondo per le demolizioni e le delocalizzazioni per 10 milioni. È un primo fondo, però iniziamo, diciamo, a parlare anche di questo. A ragionarci, dice lei. A fare un'operazione di verità anche in territori che purtroppo non possono essere difesi più di tanto, perché sono, diciamo, pianure alluvionali, antiche paludi, montagne franose, dove lì l'uomo è andato a costruire delle abitazioni, dei manufatti che sono costantemente a rischio. Appunto, gestire quel rischio costa molto di più allo Stato, ma anche agli stessi privati, che delocalizzare, cioè intervenire radicalmente spostando quelle localizzazioni in zone più sicure. Questo, diciamo, è una delle azioni che per la prima volta stiamo provando a realizzare. Grazie ad Erasmo D'Angelis, capo dell'unità di missione di Palazzo Chigi, Italia sicura. Naturalmente speriamo che veramente si parta nel 2015. Noi adesso ci sentiamo qualche altra voce dei sindaci, poi il traffico, ci ritroviamo subito dopo. Come comunicazione, il classico SMS che viene diffuso dalla Protezione Civile regionale, che nulla faceva presagire in merito a quello che poi si è verificato realmente, nel senso che SMS di quel tipo, o comunque allerte di quel tipo anche mandate via fax, ne abbiamo circa 20 l'anno, quindi se dovessi evacuare ogni volta che ho allerte di quel tipo dovrei evacuare le case 20 volte l'anno. Nulla per me faceva presagire che sarebbe successo quel che è successo. Ogni volta che qua fa due gocce arriva il rischio idrogeologico. Mi sembra un po' uno scaricabarile di responsabilità. Io ti mando l'SMS col rischio, adesso sindaco tocca a te. È successo che qui il nubifragio è stato di proporzioni inaudite. Non ho mai visto in vita mia tant'acqua riversarsi con una furia e una potenza da distruggere ponti, strade, portare via tutto ciò che ha trovato lungo il suo cammino. Sono tre settimane che insieme ad altre regioni siamo nell'occhio del ciclone. È chiaro che poi questa situazione, man mano che passa il tempo, non può che aggravare soprattutto la situazione dei fiumi, e in più purtroppo abbiamo anche in corso una tragedia, perché in un sottopasso ferroviario questa mattina, alle prime ore dell'alba, non è ancora assolutamente certo, ma tutto lo rende probabile, purtroppo una signora ha perso la vita nella propria auto. Preoccupano alcuni affluenti del Bacchiglione che poi si incrociano proprio sul Bacchiglione in Vicenza, e in particolare il Retrone, che sta dando grandi problemi perché ha raggiunto addirittura un livello maggiore rispetto all'alluvione che si era verificata nel 2010. Noi abbiamo fatto in questi anni dei lavori idraulici e ingegneristici piuttosto elevati. Parte della città allagata perché, diciamo, è venuta parecchia acqua e quindi non si riusciva, le fogne non riuscivano a ricevere, poi abbiamo tantissima acqua che scende dalla collina e quindi questo ha comportato l'allagamento dei tre sottopassaggi che collegano le due parti della città divisa dalla ferrovia. Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo, è questo periodo di Natale, di stop, di fermo della nostra diretta, anche un momento per ritornare un po' sul lavoro fatto dai colleghi della redazione, anche per le loro trasmissioni e insomma sentiremo oggi e nei prossimi giorni anche la nostra Raffaella Calandra con la sua storiacce, insomma, che ha sempre degli elementi interessanti da raccontare. Qua andiamo però su un fatto di cronaca del quale ci siamo occupati anche in effetto giorno, ed è la vicenda, la ricorderete, della maxi organizzazione, della maxi operazione contro i falsari, dalla quale si dedusse, così disse il procuratore, così disse il pubblico ministero, che il 90% dei falsi d'Europa, degli euro falsi d'Europa, arrivano da Napoli. E ci fu questa storia, tra l'altro molto curiosa, ve la ricorderete, di una banconota dal taglio impossibile, se non erro erano 300 euro, spacciata in Germania ad un artigiano tedesco. Naturalmente una cosa che fece sorridere, però in realtà l'argomento è molto serio. Allora abbiamo la nostra Raffaella Calandra che è qua con noi. Raffaella, ciao. Quali sono i numeri dunque? Allora, io sono andata, diciamo, oltre questa inchiesta che aveva portato a 56 arresti e a dei sequestri significativi e che, come ricordavi, ha confermato quello che è il principale timore anche della BCE, questo Napoli Group. Questo Napoli Group che è considerato una holding, diciamo, della falsificazione, per cui a Napoli e nel Napoletano vengono fabbricati il 90%, come ricordavi, dei soldi falsi. Allora, sono andata un po' a cercare di capire chi siano, come funzionano, come vivono, come si articola questa organizzazione dei Napoli Group. Perché a noi, Raffaella, naturalmente tutto questo richiama Totò e Peppino. Ma, però, senza dubbio. Naturalmente, però in realtà stiamo parlando di un'organizzazione malavitosa di grosse dimensioni e immagino con contatti anche con la criminalità organizzata. Sì e no, in realtà. Il richiamo a Totò non è così, non è soltanto un richiamo cinematografico e, se vuoi, di costume, ma ha a che fare anche con una certa tradizione, chiamiamola artigianale, che è del posto, che ha fatto sì che Napoli Group diventasse, diciamo, il punto di riferimento della falsificazione, perché moltissimi sono proprio dei tipografi oppure sono dei disegnatori, cioè sono persone con una grande tradizione anche di manualità che li rende poi, da un punto di vista criminale, dei falsari pazzeschi, tanto è vero che sono a prova anche delle più sofisticate polizie, ed è per questo che la BCE li teme e non pochi. Si considerano che più o meno si compongano di 11 diversi gruppi. I rapporti con la criminalità organizzata ci sono di sicuro, perché in un territorio come quello del Napoletano, dove la camorra in tutte le sue varie sfaccettature controlla praticamente tutto, è impossibile pensare che non ci sia quantomeno un nulla osta verso questo tipo di attività. Però non ci sono così diretti legami tra il volere, diciamo, dei boss dei vari clan e questa produzione di soldi falsi, anche perché spesso si tratta di persone che ufficialmente hanno un altro mestiere e poi stampano, come nel film di Totò, dove era il tipografo che aveva cominciato a stampare dei soldi falsi, stampano delle banconote. Questo è infatti, quindi, una sorta di botteghe artigianali, in sostanza botteghe artigianali con degli strumenti però sofisticatissimi, e che riescono infatti ad esportare in giro per l'Europa. I macchinari che hanno trovato sono estremamente sofisticati, ma questo ha fatto sì che ci sia anche una sorta di esportazione della contraffazione. Qui si viene in mente quasi un'altra scena di un altro celebre film, che è quello di Gomorra, dove c'è l'artigiano che va ad insegnare nella fabbrica dei cinesi la contraffazione dei vestiti. Ebbene, questi falsari tipografi sono richiestissimi ora, soprattutto nei paesi dell'est Europa, dove vanno ad insegnare ad altre persone come falsificare gli euro, dal momento che vengono considerati i migliori in assoluto. Le novità sono proprio questa esportazione verso l'est dell'Europa e verso l'Africa. Anche questo è un dato, diciamo, da un punto di vista, un dato investigativo nuovo e significativo. Molto interessante. Allora, Raffaella, io nel salutarti e nel darti appuntamento ai prossimi giorni, ti risentiremo, parleremo tra le altre cose, partendo dalla vicenda del piccolo Loris, della questione dei bambini uccisi, e ci occuperemo anche di sette e torneremo su un'altra vicenda che ha toccato le questioni di cronaca strettamente, che è quella delle case popolari. Nel salutarti faccio sentire agli ascoltatori l'intervista che hai realizzato col colonnello Francesco Ferace del nucleo antifalsificazione monetaria dei Carabinieri. Sentiamo. Riteniamo che il 90% della contraffazione mondiale dell'euro avviene tramite gli esperti tecnici e i grafici di questo famigerato Napoli Group. Ecco, spieghiamo che cos'è Napoli Group. In buona sostanza è una classe di contraffazione. C'è un livello di contraffazione molto alto? No, è un livello di contraffazione sofisticatissimo, in grado di ingannare chiunque. Dove venivano materialmente stampate e riprodotte? Una in Campania, una nel Lazio. Il vero problema è disporre di tecnici in grado di concepire e di organizzare il business. Poi la realizzazione materiale può avvenire dappertutto, tant'è che noi abbiamo tecnici di questo Napoli Group, esperti, presenti in molti paesi d'Europa. Davanti a tutto questo stupisce che poi abbiano cercato di mettere in mercato delle monete inesistenti come quella da 300 euro. Quello è un fatto accaduto mesi fa, che è stato citato come per ribadire la particolare capacità tecnica e la fantasia di queste persone che avevano realizzato un prototipo e lo avevano piazzato in un mercato del nord Europa. E ringraziamo la nostra Raffaella Calandra per questo racconto. Con lei ritorneremo nei prossimi giorni, nel prossimo paio di settimane, naturalmente, a parlare anche di altri argomenti. C'è molte storie interessanti, tra queste una che ci ha incuriosito particolarmente. Ci arriveremo nel corso della settimana, una vicenda che riguarda le sette, la crescita di una passione dei giovani piuttosto preoccupante per i vampiri, derivante anche dalle saghe come Twilight, che tanto hanno appassionato. Di questo torneremo a parlare, naturalmente. Intanto vogliamo occuparci di sport, come sempre, come sapete, effetto giorno ad effetto giorno ci occupiamo di tutte le notizie, di tutti i fatti interessanti, ci occupiamo appunto di cinema, di sport, di tutto. Ebbene, ogni giorno in queste due settimane abbiamo una storia di sport da raccontare, una storia di sport che sarà in questa settimana storie del 2014, che abbiamo deciso di tornare a raccontarvi. Nella settimana prossima saranno invece storie un po' più proiettate sull'anno successivo. Incontreremo tra l'altro Daniele Nardi, che sta cercando di scalare il Nanga Parbat in solitaria, tra poco arriverà in Pakistan per questo. Sentiremo il mister della nazionale di scherma italiana, perché ci saranno dei problemi per quanto riguarda l'Olimpiade di Rio in arrivo nel 2016, e vi racconteremo esattamente quali sono, perché sono dei problemi regolamentari. E però appunto in questa settimana ci occupiamo delle storie del 2014 ebbene non possiamo che partire da una vicenda, un 7-1 che ha fatto epoca, e lo dice un romanista, non è il 7-1 dei giallorossi contro il Bayern, ma quello dei mondiali. Semi, che dia! 5-0, 5-0, questi non si fermano, potremo assistere alla più grande sconfitta, forse già la più grande sconfitta della storia del calcio brasiliano. Eh sì, altro che Maracanazo, cioè la sconfitta in casa al Maracanà che nel 1950 costò al Brasile il mondiale a vantaggio dell'Uruguay. Dall'8 luglio 2014 quel dramma calcistico per il futebol brasiliano è stato superato dal Mineiraso, la disfatta dei Verdeoro del CT Felipe Scolari nella semifinale mondiale contro la Germania allo stadio Mineirao di Belo Horizonte. Che la Germania trita tutto fosse favorita contro un Brasile fragile, scioccato dall'infortunio la sua stella Neymar, era nell'ordine delle cose, ma che finisse così 1-7 per i Panzer davvero nessuno l'avrebbe potuto pronosticare. All'11esimo Müller, al 23esimo Klose, al 24esimo e al 26esimo Kroos, al 29esimo Khedira, e sono 5. Poi nella ripresa la doppietta di Schürrle prima del gol della bandiera brasiliano di Oscar, proprio al 90esimo, quando sulle tribune del Mineirao le lacrime già scorrono a fiumi e risuonano solo i cori dei tifosi teutonici. Cori che si ripeteranno di lì a pochi giorni al Maracanà, quando quando un gol di Goetze firmerà il trionfo mondiale contro l'Argentina. Al Brasile sfuggirà anche il terzo posto, lasciato all'Olanda nella finalina di consolazione. Conclusione amara di un sogno mondiale sepolto da gol e vergogna. Dario Ricci, Radio 24, Le Sole 24 Ore. E domani il nostro Dario Ricci ci porterà al racconto dell'approdo di Conte in nazionale. Gli altri argomenti che racconteremo, un altro degli argomenti che toccheremo domani sarà un approfondimento sull'ISIS, perché se dobbiamo identificare due episodi di politica estera importanti in questo 2014, a prescindere dall'apertura di Obama su Cuba, che è un fatto degli ultimi giorni, ebbene, se dobbiamo identificare due episodi sono sicuramente la vicenda ucraina e l'avvento del cosiddetto califfato. Domani cercheremo di approfondire. I ringraziamenti in chiusura: Filippo Aureggio e Carmelo Lauricella per la parte tecnica, Laura Faggin in assistenza in redazione, tutti voi come sempre per l'ascolto. Se volete scriverci, effettogiorno@radio24.it, e c'è anche la nostra pagina Facebook. Domani puntuali alle 13:15.